ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Euroreportage. Brexit. Verso un divorzio senza intesa? Di Sergio Nava. Le 7 del mattino, stiamo imbarcando proprio in questo momento sul traghetto che ci porterà a Dover, nella Gran Bretagna, diciamo pure indipendente, uscita dall'Unione Europea. Michele, raccontiamo le ultime fasi. C'è stato ancora qualche controllo, vero? Sì, controllo inglese, adesso stiamo salendo sulla nave. Gli inglesi non hanno fatto, insomma, grandi problemi. In questo momento il nostro tir sta entrando nella pancia proprio del traghetto di FDS, che tra una quarantina di minuti circa ci porterà a Dover, quindi in Gran Bretagna. Tempo previsto il tragitto, Michele? Un'ora e mezza. This is the last time, but I will say these words. Ci eravamo lasciati così, meno di 6 mesi fa, mentre a bordo di un tir italiano ci imbarcavamo la mattina del 1 febbraio su un traghetto che ci avrebbe portato in una Gran Bretagna tecnicamente fuori dall'Unione Europea. Premettiamo tecnicamente, perché fino al 31 dicembre il periodo di transizione sta nascondendo nei fatti la vera Brexit, una Brexit che si nota per lo più solamente nell'assenza dei rappresentanti britannici dai vertici e dalle riunioni nelle istituzioni comunitarie. Anche la Union Jack non sventola più a Bruxelles e a Strasburgo, per il resto però tutto è rimasto come prima. Questo prevedeva infatti la fase di transizione, che non sarà però prorogata al 2021, così ha chiesto Londra e Bruxelles ha accettato. Ma cosa è accaduto da gennaio a oggi? Non molto, a dire la verità. La pandemia da coronavirus ci ha messo del suo, rallentando in primavera i negoziati, anche in modo drammatico, in quanto sia il capo negoziatore europeo Barnier sia quello britannico Frost si sono ammalati di Covid-19. Le riunioni sono proseguite per settimane in videoconferenza e solo a fine giugno i due team negoziali hanno ripreso a vedersi fisicamente, prima a Bruxelles, poi a Londra. Prima che scoppiasse la pandemia, però, i due blocchi avevano messo in chiaro le rispettive posizioni di partenza in vista di un trattato di partnership. Oggi, le 27 Stati membri all'unanimità. Il 25 febbraio l'Unione Europea concordava un mandato negoziale comune, 46 pagine di documenti con i principali obiettivi di Bruxelles. Barnier in quella data parlò di un mandato unanime. Manteniamo il nostro livello di ambizione per la relazione futura, ma non concluderemo questo accordo a qualsiasi prezzo. Sono trattative complesse in tempi molto brevi. Ciascuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Non potremo fare tutto, ma la pressione temporale è stata scelta dal governo britannico, dichiarò Barnier in quella occasione, mettendo così le mani avanti, nel caso le cose dovessero finire male. 2 giorni dopo fu il turno di Londra nel presentare gli obiettivi negoziali. Per la cronaca, questo accadde 4 giorni prima che le trattative formali prendessero il via. E soprattutto un paio di settimane prima che l'intera attività diplomatica rallentasse, mentre l'Europa chiudeva paese dopo paese per il diffondersi della pandemia. Ci fermiamo ora un attimo in questa cronistoria del 2020 di Brexit per fare il punto della situazione insieme ad Antonio Villafranca, coordinatore della ricerca presso ISPI e corresponsabile del Centro Europa e Governance Globale. A lui abbiamo chiesto, per cominciare, qual è la posta in palio. La posta in palio principale riguarda le regole. Si sa che se si va soprattutto verso una situazione di accordo di libero scambio, i dazi saranno bassissimi, saranno praticamente vicini allo zero, o nel caso in cui si applicassero quelle dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quantomeno si sa quali saranno. Il problema è chi mette le regole, quali regole vengono stabilite, chi le farà rispettare. Questo è importante perché la Gran Bretagna potrebbe porre delle regole meno stringenti di quelle dell'Unione Europea e quindi fare, tra virgolette, competizione sleale appunto alle imprese europee. Quindi questa è sicuramente una red line per l'Unione Europea che non va superata. Cerchiamo di spiegare in modo proprio più semplice possibile le questioni sul tavolo, perché sono più o meno sempre gli stessi i nodi che fanno da sbarramento al raggiungimento di un accordo. Ma essenzialmente Boris Johnson vorrebbe, anzi è già uscito dall'Unione Europea, però vorrebbe utilizzare il mercato unico non soltanto per la libera circolazione delle merci, ma ci sono poi vari aspetti che riguardano i servizi, ad esempio i servizi legali. Londra è un hub mondiale dei servizi legali o anche i servizi finanziari. E ovviamente la Commissione ha chiarito già da molto tempo che se si esce dal mercato unico ovviamente non si può avere la libera circolazione, e quindi questo è l'elemento dirimente. C'è anche la pesca, forse interessa meno l'Italia, ma anche quello è un tema che ricorre spesso. Perché? Perché è strumentale ma politicamente rilevante, non lo è per nulla da un punto di vista economico. Un altro tema che alla fine ci riguarda molto da vicino è il nuovo sistema punti, presentato tra l'altro nei giorni scorsi. Andare in Gran Bretagna, muoversi in Gran Bretagna sarà molto complicato dal prossimo anno. Sarà decisamente molto più complicato, nel senso che viene introdotto questo sistema punti, 70 punti per entrare in Gran Bretagna, 50 che derivano dal fatto di avere già un'offerta di lavoro in Gran Bretagna, quindi non si potrà andare più in Gran Bretagna per poi lì andare a cercare lavoro, e poi altri che riguardano appunto il tipo di istruzione, la conoscenza dell'inglese e così via. La cosa che colpisce di più è a volte l'eccessivo dogmatismo di questo governo britannico di fronte a delle evidenze come un quadro economico pesantissimo, anche a causa questo ovviamente della pandemia, e delle ricadute che un no deal o un accordo non così dettagliato potrebbe avere. Perché Boris Johnson va avanti senza tenere conto di tutto quello che sta accadendo intorno? Perché il Brexit è stato il motivo per cui essenzialmente lui è primo ministro e il collante dei conservatori. Non dimentichiamo che con Theresa May i conservatori si erano spaccati, Theresa May si era spostata verso una posizione più soft relativamente a Brexit, e questo appunto aveva fatto sì che i conservatori addirittura avessero una pessima performance alle elezioni, cosa recuperata dal tutto con Johnson proprio facendo di Brexit e di un atteggiamento più duro su Brexit il collante di tutti i conservatori, e anche convincendo gli inglesi che quantomeno, ecco, lui aveva delle idee chiare. Riprendiamo ora il nostro excursus in uno dei negoziati più complessi della storia dell'Unione Europea. Lo riprendiamo dalla metà di giugno, quando, dopo lo stop de facto imposto dalla pandemia, i vertici europei e britannici, la presidente della Commissione von der Leyen, gli altri leader delle istituzioni comunitarie e il premier Boris Johnson si incontrano virtualmente per dare nuova linfa a trattative ormai in stallo. Hello, Boris. How are you? No, fine, you? Very good, lovely to see you all. Felici di rivedervi. La von der Leyen e Johnson si scambiano parole di cortesia all'inizio del meeting online in videoconferenza, al termine del quale la notizia è una e solo una: Londra non intende chiedere un rinvio della fase di transizione. Il taglio definitivo del cordone ombelicale con l'Europa resta fissato al 31 dicembre. Bruxelles ne prende atto suo malgrado. Wir begrüßen die konstruktiven Gespräche über die künftigen Beziehungen. La von der Leyen conferma la decisione britannica in un video, lodando tuttavia l'atteggiamento di Londra, che definisce costruttivo. Occorre però un nuovo slancio nei negoziati, condotti tra mille difficoltà anche in pieno lockdown. Per questo occorre un'intensificazione dei colloqui a luglio, ammette la von der Leyen. Pochi giorni dopo è la cancelliera tedesca Angela Merkel a rendere più espliciti i problemi, bypassando la diplomazia della presidente della Commissione. Wir haben mit Großbritannien vereinbart, jetzt diese Verhandlung zu beschleunigen. L'Unione Europea deve prepararsi anche all'eventualità di una Brexit senza accordo, avverte la cancelliera aprendo il semestre di presidenza tedesco alla guida dell'Unione. Questo mentre Londra guarda con preoccupazione al potenziale micidiale intreccio di pandemia e contraccolpi economici legati a Brexit, qualora il 1 gennaio l'uscita dall'Unione dovesse avvenire nel modo peggiore possibile, vale a dire con un no deal. La Bank of America paragona la gloriosa sterlina britannica a una valuta da mercato emergente. Il debito pubblico supera quota 100% del PIL a livelli che non si vedevano dagli anni 60. E anche il mondo del lavoro privato lancia segnali preoccupanti con annunci a raffica di esuberi. Il premier Johnson ha risposto al declino economico promettendo un new deal da 5 miliardi di sterline per investimenti infrastrutturali. Ma allarghiamo adesso lo sguardo spostandoci verso fine anno. Quali sono le conseguenze potenziali di Brexit in vista del 2021 da un punto di vista prettamente economico? Ne parliamo con Lorenzo Codogno, economista radicato a Londra, dove è Visiting Professor in Practice alla London School of Economics, nonché fondatore e capo economista della società di consulenza LC Macro Advisors Ltd. Secondo me all'inizio di questa pandemia la possibilità di un'uscita senza un deal, senza un accordo, c'era. E anzi, per certi aspetti la pandemia ha aumentato il rischio, perché avrebbe, come dire, diluito l'impatto economico di Brexit in un impatto ancora più ampio che quello della pandemia. Quindi avrebbe confuso, diciamo, le carte, rimescolato le carte, confuso la situazione, e quindi questo avrebbe, da un punto di vista politico, aiutato l'amministrazione, il governo inglese. Ora secondo me c'è un ripensamento, perché l'impatto economico della pandemia è talmente forte che l'economia è in grande difficoltà. Aggiungere a questa difficoltà anche lo shock di un'uscita non gestita, non concordata, mi sembra un problema molto serio. E quindi sta cercando il governo inglese di chiudere un negoziato secondo delle linee che sono chiamate, che sono minimali, diciamo, cioè un accordo di molto molto leggero. Non so se questo sarà possibile, perché ci sono ancora molti ostacoli che secondo me saranno molto difficili da superare. Tra l'altro la Gran Bretagna arriva a questo appuntamento con un'economia fortemente indebolita. Un no deal potrebbe avere un impatto devastante a quel punto sull'economia britannica? Secondo me il contesto economico mondiale è cambiato a seguito della pandemia, è cambiato non in senso favorevole per il Regno Unito. Teniamo presente che ormai si va verso una tripolarizzazione, se vogliamo, cioè ci sono tre grandi poli di attrazione: la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa. Al di fuori di questi tre grandi poli è un po' difficile per un paese, anche con una storia importante come Regno Unito, però trovare, come dire, i suoi spazi, no? E questo è un problema. Inoltre devo dire che anche da un punto di vista geopolitico, chiamiamolo così, Regno Unito si candidava ad essere uno dei poli per l'entrata, diciamo, della Cina all'interno dell'Unione Europea in termini di flussi commerciali, soprattutto finanziari, e questo ovviamente sta venendo meno con le tensioni che si stanno avendo con la Cina. Con gli Stati Uniti sta investendo moltissimo nel chiudere un trattato commerciale entro fine anno, non so se ci sarà questa possibilità, ma chiaramente anche i rapporti con gli Stati Uniti sono molto più freddi e sono molto più difficili. Quindi si ritrova abbastanza isolato il Regno Unito in un contesto internazionale molto più difficile, con una crisi economica che è molto, molto pronunciata, questo ovunque, quindi nel Regno Unito si può prefigurare anche una situazione in cui c'è la necessità di trovare un accordo che quantomeno nel breve periodo preservi questa apertura commerciale, che per il Regno Unito è assolutamente importante. Euro Reportage. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.